da piccola abusava di lei suo padre, ed il mondo gli crollava nelle vene. Ogni notte era un martirio, una storia da dimenticare. Le sue mani come un ladro rubavano il suo cuore. Le sue mani come un ladro ferivano il suo cuore. A cosa serve avere un padre che ti sputa in faccia la sua voglia di bruciare la sua anima perversa? Certe ferite fanno male, più male di una fucilata. Ti lasciano un segno, tutta una vita. Ti lasciano un segno, tutta una vita. E negli anni in silenzio porti dentro tutto il peggio, tutto il male del mondo. Dell'amore hai conosciuto solo uno sputo, e il tuo sguardo si fa cupo, sordo e muto. E il tuo sguardo si fa cupo, sordo e muto. Arriva il giorno delle nozze e a tuo marito tu non parli, tu non dici cosa hai subito, ma la storia si accanisce su chi deluso di paura veste il suo vuoto e la vita ha ucciso. Di paura veste il suo volto, la vita ha ucciso. E vedere il tuo uomo baciare tua figlia non ti fa nessuno effetto, non hai più voglia. E passeggi nel deserto come un'anima persa, e ti lasci scivolare nella tempesta. E ti lasci scivolare nella tempesta. E negli anni in silenzio porti dentro tutto il peggio, tutto il male del mondo. Dell'amore hai conosciuto solo uno sputo, e il tuo sguardo si fa cupo, sordo e muto. E il tuo sguardo si fa cupo, sordo e muto. Mai ferita fu più grande per te, donna. Mai delitto fu più grande che uccidere l'innocenza. Di ogni lacrima versata tra l'indifferenza generale, hai sepolto la tua vita in un destino crudele. Hai sepolto la tua vita in un destino crudele. Da piccola abusava di lei suo padre, ed il mondo gli crollava nelle vene. Ogni notte era un martirio,